9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno. E in questa giornata di giovedì 25 novembre noi ci occupiamo inevitabilmente di quello che ieri ha assunto una forma molto italiana, molto tradizionale. Quando si arriva con dei nodi al pettine, c'è chi in interventi di riforma discutibili, complessi, non essendo d'accordo, naturalmente esprime la sua protesta in maniera sempre più dura, sempre più innovativa, alla ricerca di forme che nella civiltà della comunicazione colpiscano. Quindi ieri abbiamo avuto gli studenti universitari che sfondano l'ingresso del Senato, e ci sono i giornali italiani, alcuni di essi, che titolano come La Repubblica: la rivolta dell'università, studenti all'assalto del Senato, il governo va sotto sulla riforma. Abbiamo i ricercatori universitari che, oltre a non fare gli esami e a protestare da mesi, daremo loro anche il microfono oggi, perché sono accusato da molti mesi di essere un miope, cieco, sordo, oppositore delle ragioni dei ricercatori, e quindi ci sarà un rappresentante della rete 29 aprile, anche perché con le centinaia di mail che ho ricevuto di epiteti e di gentili valutazioni del mio ottundimento mentale, il minimo che possa fare è dare loro il microfono. Abbiamo i politici che scalano i tetti insieme ai ricercatori, e con tanto di dichiarazioni creative anche lì sul fatto che il posto del politico è salire sul tetto, mi riferisco all'onorevole Bersani. Abbiamo un paese che intorno ai temi della ricerca e dell'università, a mia modestissima opinione, continua a confondere il numero degli addetti dell'università e una concezione dell'università prioritariamente volta a soddisfare le esigenze sociali di parcheggio pubblico per accrescerne i dipendenti, con qualità, merito, eccellenza della ricerca, che è tutt'altra questione, a mia modestissima opinione, soprattutto in un paese che nelle graduatorie comparate internazionali fa poca ricerca, trattino, al netto del fatto che la ricerca non è solo quella pubblica, virgola, al netto del fatto che nelle graduatorie internazionali la stima statistica della nostra ricerca non acchiappa, non fotografa, virgola, poiché è fatta con le matrici di input e output stabilite in Europa e condivise dagli organi statistici, virgola, il più della ricerca fatta da centinaia di migliaia di piccole imprese italiane, virgola, perché i criteri di rilevazione comuni non sono ad hoc i migliori per fotografare di innovazioni di processo e di prodotto che ci sono nella piccola impresa italiana, trattino, ma è pur vero che noi siamo molto sotto nelle graduatorie internazionali, ma forse a maggior ragione, poiché dobbiamo investire di più e poiché la classe dimensionale delle nostre imprese unità produttive, essendo sottopatrimonializzata, ha dei limiti molto forti nelle risorse finanziarie da destinare in ciascuna unità produttiva a questa che è la frontiera avanzata per la ricerca del valore aggiunto e delle innovazioni, dei nuovi brevetti, la mia modesta conclusione iniziale è che forse noi dovremmo concentrarci su metodologie di premio dei ricercatori, peer review dei loro lavori, accentramento delle poche risorse che abbiamo sul meglio del meglio, selezionando bene settori e criteri attraverso cui organizzare la ricerca stessa. Può essere naturalmente che io mi sbagli integralmente. Prima di arrivare a tutto questo, e prima quindi di presentarvi gli ospiti della nostra trasmissione, una modesta osservazione. Ieri abbiamo parlato di albi e ordini professionali, in particolare lo abbiamo fatto concentrando la nostra attenzione sulla riforma dell'ordinamento forense degli avvocati. Avete capito per l'ennesima volta che sono contrario agli ordini e alle barriere d'ingresso attraverso i quali il moltiplicarsi degli ordini e degli albi rende la nostra situazione una foresta ancora più fitta di ostacoli corporativi. Oggi lo dico per il popolo web in ascolto, occhio, perché un'altra intelligentissima, faccio per dire, vero, trovata di questo genere verrà dalla GCOM, l'autorità per le comunicazioni, e il popolo web è meglio che presti un orecchio, perché sul blog di Stefano Quintarelli, spesso nostro ospite, una secondo me delle personalità più appassionate e più competenti in materia di digitale, nuove tecnologie della telecomunicazione, banda larga e tutto ciò che vi è connesso, quindi il Quintarelli blog io lo richiamo richiamo e lo sottolineo a tutti coloro che sono in ascolto: se vogliono un'informazione competentissima e aggiornata ogni giorno su tutto quello che si muove in Italia e nel mondo, lì lo trovate. Ieri mi ha segnalato che alla GCOM oggi è in arrivo un nuovo registro, una nuova tassa. E qual è questo nuovo registro? Questa nuova tassa è relativo a chi mette filmati su internet. Attenzione, qui non stiamo parlando della TV on demand, no, qui stiamo parlando di tutti coloro che postano un video su internet, sulla rete, cioè di milioni di persone. Ecco, dopo essersi a lungo interrogata la GCOM sulla necessità di come tassare questa impropria attività e espressione dell'articolo 21 della Costituzione, il criterio sarebbe quello di mettere una tassetta di qualche migliaio di euro, ma limitandoli a coloro che hanno più o meno 100.000 euro di fatturato. Qualunque onlus è sopra questa soglia. Per esempio, il mio istituto Bruno Leoni e il Chicago Blog, che io animo tutti i giorni, è sopra questa soglia, e ci vorrebbero fare mettere una tassa per ogni video che postiamo ogni giorno per le nostre idee. In più bisognerà tenere un apposito registro fatto di scritture contabili, eccetera eccetera. Capite che siamo di fronte all'ennesima tassa, il cui gettito, scrive secondo me giustamente Stefano Quintarelli, servirà a retribuire semplicemente la tenuta del registro stesso, un nuovo ostacolo questa volta alla libertà della rete. Occhio a come sarà davvero la delibera della GCOM. Vi segnalo un'altra perletta di questo paese, che anche qui riguarda ciascuno di voi. Abbia a casa qualche computer, se ne intenda un po', abbia messo un server per potenziare la vostra stazione di lavoro a casa o nella vostra azienda. Un provvedimento del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre scorso, mi era sfuggito anch'esso, chiunque voglia attaccare un qualunque oggetto alla rete, un router, uno switch, eccetera eccetera, non un semplice terminale PC, deve essere un installatore iscritto all'apposito albo. Avete capito? Chi lo facesse senza essere l'installatore iscritto all'apposito albo è esposto a una sanzione da 15.000 a 150.000 euro. Capite? Se vi siete messi un router e non siete iscritti all'albo, 150.000 euro. Ecco, questa è l'Italia rispetto alla quale vorrei esprimere qualche termine che non è consentito dalla buona educazione, ma è l'Italia che giorno dopo giorno ci propone nuovi esempi della direzione, a mio modesto, opposta in cui dovrebbe andare. Una tassa per mettere video su internet? L'albo per mettere un router sul mio computer? Bah, per favore. Eppure il provvedimento è vigente, il secondo, quindi state attenti che qua si rischiano 150.000 euro, vi arriva la finanza, vi blocca tutto e voi pagate. Detto questo, passiamo alla ricerca. Nella prima parte di questa trasmissione gli ospiti sono un giornalista e un esponente del CNR. Perché? Perché nei giorni scorsi la stampa, secondo me meritoriamente, infatti l'ospite è Alessandro Barbera, saluto e lo ringrazio, buongiorno. Buongiorno a voi. Ha scritto un articolo, ha fatto un'inchiesta di quelle, come si suol dire, vecchio stile, e è andato a visitare uno dei centri di cui si parla di meno, ma che è descritto, numeri alla mano, lui ha passato un po' di tempo dentro, si è fatto un'idea precisa di come funziona, come non funziona, e ha fatto qualche paragone. E per questo infatti abbiamo con noi Luciano Maiani del CNR, perché ne è scaturito un dibattito. Luciano Maiani è il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e saluto il presidente. Buongiorno, buongiorno. Maiani. Ecco, buongiorno. Cederei la parola subito ad Alessandro Barbera, perché ho già preso 10 minuti io per parlare d'altro, per descriverci quello che nel suo articolo pubblicato sulla stampa il 7 novembre veniva detto. Il centro di eccellenza è l'IIT a Genova. E che cosa lo ha colpito di questo centro rispetto alla ricerca italiana e rispetto a altri criteri comparabili della ricerca pubblica nel nostro paese? Buongiorno, ma sostanzialmente l'IIT è un centro di ricerca che funziona come funzionano i grandi centri di ricerca internazionali. Ci sono dei ricercatori assunti sulla base di bandi inseriti nelle grandi riviste di ricerca internazionale, vengono selezionati, assunti per 4 o 5 anni. Durante questi 4 anni di contratto, diciamo mediamente il contratto vale 4 anni, i ricercatori hanno un piano scientifico da rispettare, e se questo piano scientifico è rispettato, il lavoro prosegue e per loro c'è anche un salario di risultato. Se il piano scientifico non viene rispettato, il dipartimento, quest'anno all'IT accadrà per un dipartimento, viene chiuso. Pur con tutte le polemiche, faccio una premessa per i critici, l'IT è un centro di ricerca pubblico finanziato lautamente dal governo con 100 milioni di euro l'anno e questo ha provocato molte polemiche perché questi soldi sono stati ovviamente sottratti alla ricerca, agli altri grandi centri di ricerca, in particolare il CNR, quindi fatta questa premessa che riguarda l'anomalia dell'IT nel sistema di ricerca italiano, secondo me quel modo di fare ricerca è un modo di fare ricerca che può essere quello a cui l'Italia dovrebbe ispirarsi, non creare posti di lavoro per persone che magari poi smettono di fare la ricerca, ma concentrare le risorse su alcuni obiettivi ben chiari e avere come unico obiettivo, come unico vero focus dell'istituto, fare ricerca. L'IT fra l'altro non fa didattica, questo naturalmente va a suo vantaggio dei suoi ricercatori perché non sono costretti a fare le ore di insegnamento alle quali vengono costretti e verranno sempre più costretti i ricercatori italiani, però quello secondo me è la strada che dovremmo e non intraprendiamo. Ora, naturalmente nell'inchiesta di Alessandro Barbera erano dettagliate l'organizzazione dell'IT, la storia dell'IT, perché poi la storia dell'IT diciamo ha dei dubbi, li chiamo dubbi, ma sono più che dubbi, degli elementi anche di contrarietà della comunità della ricerca pubblica italiana anche per la sua storia, perché è una storia che nasce con molti finanziamenti nei primi anni, 360 milioni tra 2006 e 2008 per iniziativa sotto il governo Berlusconi, soprattutto Vittorio Grilli, direttore del Dipartimento del Tesoro. Dopo arriva il governo Prodi, il governo Prodi ha molti dubbi, sospende, si fa un esame del IT, poi i finanziamenti riprendono, ma diciamo questo marchio d'origine effettivamente non aiuta alla popolarità dell'IT. Trovate tutti i numeri meglio nell'articolo di allora, ma che cosa succede? Succede che Maiani, appunto il presidente del CNR, dice no, state attenti però a fare dei confronti di questo tipo, a dire per esempio che nell'IT, isola dell'eccellenza della ricerca pubblica, ci sono molti più ricercatori in percentuale sul totale degli addetti, mentre noi saremmo molti più amministrativi, eccetera eccetera. La realtà è che la torta è così limitata che darne una fetta così rilevante alla presunta isola di eccellenza non fa che aggiungere un altro elemento di penalizzazione al CNR. Naturalmente non ho nessuna intenzione io di sostituirmi al presidente del CNR che abbiamo qua, e io a Maiani chiederei sia un giudizio su quello che avviene nel totale della ricerca in questo momento di fortissime proteste, e poi anche di parlarci del paragone di diversi criteri organizzativi nell'ambito della ricerca pubblica. Prego presidente. Ma io vorrei prima di tutto chiarire che non ho niente contro l'IT e che non ritengo che l'IT tolga spazio o forse risorse, ma al CNR. Il CNR ha un bilancio di 1 miliardo l'anno, quindi diciamo su questa scala l'IT ha le dimensioni di un grosso istituto del CNR. Il problema che io vorrei dire è che l'IT è chiaramente un istituto di nicchia, cioè non si può pensare che la ricerca in un paese, ad esempio, venga fatta soltanto con dei ricercatori a tempo determinato. Questo è una follia, non avviene in nessun paese del mondo. È chiaro che la ricerca, soprattutto quella a tutto campo, come viene fatta dal CNR, richiede che poi a un certo momento, magari giustamente con dei criteri di selezione elevata eccetera, ci siano anche una solida base di ricercatori permanenti che costituiscono il vero patrimonio di un ente e il vero patrimonio del paese. Devo dire che io sono, vi parlo da Israele, dove ho concluso, si è conclusa il decennale del scienze e tecnologia Italia-Israele, e la ricerca italiana vista da qui appare come quella di un paese normale, anzi piuttosto brillante. I ricercatori italiani sono molto apprezzati ed è una ricerca, quella che ho visto in questi giorni, a tutto campo, che va dalla fisica alle neuroscienze, all'ambiente, alla medicina, e così via, ed è quindi un oggetto che deve essere portato avanti, impegnato in un paese moderno e di grande dimensione come il nostro su tutti i fronti. Quindi la polemica che si è sviluppata con il Berbera non era tanto sul ruolo di Liti, per carità, ma era su un dato impreciso. Quello del rapporto tra amministrativi e ricercatori. Esatto. E quello è semplicemente, mi dispiace, Berbera ha visto solo il dato dei ricercatori e il dato del personale totale, però diciamo il nostro, se io metto insieme ricercatori, tecnici e tecnologi e poi da parte degli amministrativi, sono circa il 12% del personale, cioè aspetti prima che vada avanti, sono uno su otto. Quindi... Presidente, prima di andare avanti, perché Barbera aveva detto all'IT molto più piccolo, d'accordo, un decimo di quello, però il rapporto è se ci sono quattro ricercatori per un amministrativo, invece diceva uno a uno. E lei ha detto no, non sono uno a uno ma sono uno su otto. Eh beh, perché lui contava solo i ricercatori, che tra l'altro il numero era 3.700, oggigiorno i nostri ricercatori sono di più, sono 4.500. Mi spiace, ma ci sono dei siti che non sono ben aggiornati. Ma se Berbera avesse chiesto a qualcuno del PNR con una semplice telefonata i dati, glieli avremmo dati, sono a disposizione di tutti. Noi abbiamo circa, come ho detto, il 12% del personale è un personale amministrativo. Il resto sono ricercatori, tecnologi e tecnici di laboratorio. Anzi, come tutti i tecnici sono una grossa frazione e ormai non possiamo dimenticare che gli enti di ricerca, il CNR, l'INFN, l'INGV eccetera, sono ormai gli unici depositari dei tecnici di laboratorio, che sono una cosa importantissima e che ormai nell'università sono scomparsi. Presidente Maiani, lei con una punta di orgoglio e sottolineando che nessuno fa ricerca con il solo tempo determinato, dice nella sua lettera di risposta alla stampa, dice noi abbiamo dato anche noi il nostro piccolo, modesto ma orgoglioso contributo al contenimento del precariato, per così dire, perché abbiamo molto personale a tempo indeterminato. Perché? Per spiegarlo ai non addetti ai lavori, perché bisognerebbe immaginare che un ricercatore a tempo indeterminato, non essendo soggetto alla conferma in base alla peer review, all'esame dell'effettivo successo e validità delle sue ricerche in termini comparati dalla comunità di riferimento scientifica, dovrebbe produrre ricerca migliore rispetto a uno che invece ha quello stimolo del tempo a determinato per la conferma e del successo che deve ottenere con la peer review? No, scusi, io voglio dire questo. Precariato a vita esiste. Non esiste in nessun paese del mondo, cioè in qualunque paese del mondo, anche negli Stati Uniti, dopo un po' c'è la tenure. Questo non vuol dire che uno non possa essere licenziato. Se uno si comporta indegnamente, se non fa più niente, gli verrà ridotto lo stipendio o non gli verranno aumentati. Infatti da noi ci sono gli scatti, le promozioni, e queste promozioni non verranno date. Ma non esiste in nessun paese al mondo che la ricerca sia unicamente basata su del personale a contratto, perché il ricercatore ha un'evoluzione nella sua vita. Io, che sono un ricercatore, penso, di successo, ho cambiato nel corso della mia vita molte cose. Certamente la ricerca che ho fatto negli ultimi anni prima di diventare presidente del CNR non era la stessa che facevo quando avevo 25 o 30 anni. Quindi nel corso della vita il ricercatore cambia. Prima sarà un ricercatore di punta, poi farà magari una maggiore attenzione al trasferimento delle tecnologie o all'insegnamento e così via, se stare all'università e così via. Ma non si può pretendere che una persona ogni 5 anni gli si dica va bene, allora a te ti licenziamo. Questa è una follia. L'IT se lo può permettere, così come se lo permettono altri centri, perché, ripeto, è una nicchia, è un posto di passaggio. Uno dice va bene, io prendo i ricercatori, ma dove vanno i ricercatori dopo il contratto all'IT? Li buttiamo via? Li gettiamo via? E quelli vorranno avere uno stipendio, una casa, una stabilità, una famiglia, come tutti. Non vedo, francamente, questo problema. Va bene, io ringrazio il Presidente Maiani anche perché sta in Israele, noi andiamo in pubblicità, quindi non lo teniamo adesso nei nostri minuti di pubblicità, e intanto io lo saluto e lo ringrazio perché ci tenevo in particolare a dare ai nostri ascoltatori la voce del CNR. Io dico viva il CNR, ho dei dubbi naturalmente sul fatto che i criteri amministrativi, che sono inevitabili in tutto nel pubblico italiano, siano i migliori, ma in questo io rendo atto al Presidente Maiani e tantissimi ricercatori del CNR di fare più del possibile perché il nostro paese avanzi al meglio nelle frontiere avanzate appunto della ricerca. Intanto pubblicità e poi torniamo con Barbera e la rete 29 aprile dei nomi dei miei carissimi amici ricercatori. Eccoci tornati in studio. I giornali di oggi sono pieni di fotografie, non solo di quello che è avvenuto ieri al Senato. Io tendo a distinguere chi ieri al Senato ovviamente ha forzato gli ingressi rispetto a chi protesta legittimamente contro la riforma Gelmini, una riforma che è partita in un modo e per strada è molto cambiata. Più di 60 volte il governo ha dovuto cambiare impostazione, come sempre è diventata una riforma patchwork. Adesso ha aperto la gara anche nell'ex maggioranza chi porta a casa riconoscimenti per questa o quella fascia. Ieri per esempio è stata introdotta una figura del professore aggregato, che saranno un certo tipo di ricercatori con un certo tipo di ore di didattica, sarà un'altra fascia che poi maturerà nuove richieste. Avete visto che Futuro e Libertà, da che dentro e fuori nella maggioranza, si porta a casa anche lei adesso la tutela dei fondi che prima erano tagliati. Anche qui per i premi ai professori che prima non erano contemplati. Sapete benissimo che c'è una protesta generale per le risorse tagliate, perché la critica generale è che nell'ambito dei misure di contenimento di tutte le dotazioni dei ministeri non è stata fatta un'eccezione, come in moltissimi altri grandi paesi tipo Francia, tipo Germania, tipo anche la Gran Bretagna, che taglia di 9 punti il PIL, la scuola e l'università. Da noi invece Tremonti non ha sentito ragioni. Però è una riforma che introduce criteri per il commissariamento, per esempio, degli atenei in rosso, delle nuove norme per i rettori e anche per l'abilitazione nazionale all'insegnamento. La mia idea è che molto del buono che c'era si è un po' perso per strada, perché la presa dei rettori e degli ordinari, come quella degli avvocati sull'ordinamento forense nelle aule parlamentari, è formidabile, devo ammetterlo, è formidabile. Ciò malgrado, mettere figure nuove nei senati accademici, nelle organi di gestione dell'università, non lasciando solo i professori, a me continua a sembrare una cosa positiva, ma il punto di fondo è diventato quello non solo dei tagli, confusi con l'Italia alla ricerca, se mi permettete, quello dei ricercatori, di questa specie di terza fascia a metà tra l'insegnamento per far fronte a ciò che non fanno le altre due fasce, compito meritorio, ma naturalmente che ne ha reso il profilo molto diverso da facoltà a facoltà e insegnamento a insegnamento, perché c'è chi fa ricerca soprattutto, poco insegnamento, c'è chi fa soprattutto insegnamento, poco ricerca, chi per niente ricerca e solo insegnamento. E con questa figura un po' anomala, che ha finito per essere una specie di tappabuchi dell'università italiana in questi anni, e lo dico quindi solidarietà e sostegno, di fronte alla necessità introdotta nella riforma di fare un'interruzione rispetto ai contratti attuali e a dire rispetto ai ricercatori: guardate, vi diamo un nuovo contratto a tempo determinato da 3 a 5 anni seguiti da un contratto più triennale, dopodiché o voi prendete l'abilitazione, l'incarico da associato, oppure c'è la risoluzione del rapporto. Questo è stato uno dei punti di maggiore contrasto, e lo è a tutt'oggi. I politici iniziano a salire anch'essi insieme ai ricercatori sui tetti delle università. Trovate le fotografie di Di Pietro, di Barbato, di Bersani, e mi è sembrato più che giusto, dopo tante polemiche, oggi invitare Guido Mula, che è ricercatore di fisica all'Università di Cagliari, componente della Giunta Nazionale delle Rete 29 aprile, che è una delle componenti più combattive, più documentate, più appassionate di questa protesta dei ricercatori. E io, nel salutarlo e nel ringraziarlo, al netto di tutte le sciocchezze che avrò detto secondo lui anche questa volta, per chiedergli di illustrarci com'è, perché questa è una riforma da buttare, immagino, nel cestino, o che cosa si potrebbe ancora, se cambiare o se non convenga dal loro punto di vista, tornare con un punto a capo. Prego, Mula. Buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito. Intanto il problema di questa riforma è che non è una riforma condivisa e ha una marea di deleghe al governo che rendono la legge sostanzialmente ineffettiva. L'unico punto che è in qualche maniera strutturato riguarda esclusivamente la governance degli atenei, quindi il trasferimento del potere decisionale sostanzialmente al consiglio di amministrazione, lasciando tutto il resto con puro potere consultivo. Un consiglio di amministrazione, il problema non è che ci siano degli esterni, il problema è che gli esterni rischiano di essere maggioritari rispetto ai componenti interni, e non è ben chiaro quali sono le competenze o gli interessi che queste persone possono portare all'interno dell'università. È importante penso che sia chiaro che i ricercatori non stanno facendo una protesta per portare a casa qualcosa per se stessi, ma stanno facendo una protesta che riguarda l'università intera. Quindi vogliono che si discuta di progressioni, certamente, ma anche di assunzioni, di diritto allo studio, di fondi che devono essere dati in tempi congrui e in quantità ragionevole, e che ci sia una programmazione che permetta alle università di lavorare e di costruirsi il proprio futuro in maniera logica. Lei parlava di commissariamento degli Atenei, è giusto se parlare di punire chi non è in grado di gestirsi i fondi, però è inopportuno e improprio farlo se il governo contemporaneamente toglie tutti i fondi e poi dice però non sei in grado di gestirtelo. Bisogna fare una programmazione seria. Tenga presente che adesso, fine novembre 2010, il governo non ha ancora dato alle università e neanche detto quanti soldi avranno per il 2010. Non si può pretendere che le università funzionino in maniera ottimale in queste condizioni qui. Ribadisco che noi vogliamo valutazione, perché è importante avere la valutazione, ma anche sulla questione dei ricercatori a tempo determinato che lei stava citando un attimo fa, bisogna stare attenti che non è una figura che viene messa a unica figura di pre-ingresso in ruolo, va ad aggiungersi ad altri. Gli assegni di ricerca che fino a qualche anno fa erano fino a 8 anni sono portati fino a 12 anni. 12 anni più 5 e 6 fa 18 anni di precariato, che è un tantinello eccessivo, vuol dire che prima dei 40 anni uno, se vuole entrare all'università, rischia di non avere spazio in queste grandi ristrettezze di bilancio. Ora io mi tocca dire che se non c'è certezza sui fondi, lei sa meglio di me che rispetto al taglio delle dotazioni il Parlamento, dopo le proteste interne alla stessa maggioranza, fuori eccetera, Tremonti pare ha trovato, come sa, qualche cosa in più, e per questa è una delle voci. Naturalmente il taglio ci sarà, naturalmente immagino che lei dica perché dobbiamo compartecipare ai tagli generali, sbagliata la logica dei tagli lineari, sono d'accordo, però senza che ci perdiamo in questa cosa che è una delle componenti di fondo, però, perché non c'è componente della vita italiana che non dica no ai tagli. Il giorno prima i tagli relativi alla cultura, ai film, ai teatri, eccetera, eccetera. Io capisco tutti, tranne che accontentando tutti i soldi li stampiamo col torchio, ma non è questo il punto. Invece la chiedo una cosa relativa a uno dei punti specifici della protesta dei ricercatori che più ha animato le polemiche tra me e la Rete 29 aprile sulle mail e nelle trasmissioni. Cioè, i ricercatori dicono: noi non stiamo chiedendo una cosa per noi, noi ci battiamo per un profilo generale dell'università in cui abbia più voce chi stanno dentro, a cominciare da noi, ma gli studenti, qualunque componente. Le chiedo, ma come mai però tutti i giornali, sbagliano tutti, non è che se io oggi apro Repubblica, a pagina 4, trovo su Il racconto, accampati sul tetto per salvare il nostro futuro, i punti in cui Repubblica sintetizza la vostra battaglia, le vostre richieste, la vostra come quella delle altre componenti che protestano, e i punti di Repubblica, di Repubblica che non credo che sia aliena e avversa alla protesta, sono: primo, contratti a tempo; secondo, i precari in cattedra. E cosa c'è di male a dire da parte mia: qui c'è una questione relativa alla sistemazione di una figura a cui abbiamo chiesto negli anni un ruolo improprio? Perché insorgete dicendo: ci vuoi far fare la parte dei corporativi? Io leggo Repubblica. Il problema della polemica che c'è stata non è riguardo al fatto che serve fare le progressioni di carriera, perché serve valorizzare il merito, come lo stesso ministro dice. Il problema è un pochettino più complesso, perché l'università italiana e la ricerca in generale in Italia ha meno persone di quelle che ci sono negli stati con i quali vogliamo competere. Lei allora dice che il rapporto tra totale dei dipendenti, mettendoci dentro le diverse fasce docenti, gli amministrativi e il personale tecnico dell'università italiana rispetto a... Io sto parlando dei docenti momento. Il personale docente, se va a guardare le statistiche, scopre che ricercatori in generale, quindi compresi anche gli enti di ricerca, noi ne abbiamo meno rispetto alla popolazione di quello che c'è nei paesi con i quali ci confrontiamo. In compenso, nell'università abbiamo un rapporto tra studenti e docenti che è più alto, era già più alto nel 2008 rispetto agli stessi paesi. Questo vuol dire che noi abbiamo una didattica che è per forza di cose meno efficace. Oltretutto noi abbiamo circa 4.000 euro in meno per studente rispetto alla media europea. In queste condizioni è molto difficile pretendere che il sistema funzioni in maniera ottimale. Oltretutto, siccome i tagli di bilancio e le regole e i vincoli che vengono imposti sempre di più fanno sì che le università non potranno assumere personale, docenti, nei prossimi anni, se non in maniera minimale, vuol dire che questo rapporto studenti-docenti andrà a peggiorare pesantemente. Allora, se si vuole garantire un processo di riforma serio dell'università, non si può fare a prescindere da queste cose. Bisogna discutere un'azione globale, bisogna confrontare i finanziamenti, l'efficacia, la tempistica con una programmazione che permetta di valutare se il corpo docente non è grande come il numero a prescindere, ma se è grande rispetto a dei parametri seri, come per esempio il rapporto tra studenti e docenti. Abbiamo già meno laureati rispetto agli altri paesi del mondo, ma anche meno matricole, serve incentivarle. Se noi aumentiamo le matricole e continuiamo a diminuire il corpo docente, noi ci troveremo in una situazione che va al collasso. Ecco, io per esempio su meno matricole la penso radicalmente all'opposto di lei. Io penso che l'università di massa che abilita questo sogno in 20 anni, che basta l'università per lavorare, porti alla frustrazione di massa e al fatto che sul totale dei 2 milioni di disoccupati italiani noi abbiamo più di 200.000 posti che non riusciamo a coprire, figli dell'università di massa. Mentre io che tengo un corso all'università mi sento dire che non posso stangare i somari, perché se perdo gli iscritti da parte del capo del dipartimento e del preside, io contribuisco alla diminuzione dei trasferimenti a cui diritto la mia università. E io capisco, bisogna essere civili nel confrontarsi, però continuo a pensare che ci sono proprio due visioni di fondo: a che cosa serve l'università pubblica, a cosa serve l'eccesso di posti pubblici e quali siano gli effetti sulla formazione del capitale umano e sulla soddisfazione delle esigenze del sistema produttivo del nostro paese, così come esso è. Però, naturalmente, io rispetto i punti di vista di tutto, ora le informazioni sulla circolazione stradale. Allora, direi rapidissimamente un paio di telefonate almeno da ascoltatori e poi il commento finale di Mula e poi di Barbera, perché ci tengo a sentire anche la sua opinione su questo. Cominciamo rapidamente con Mario. Mario che ci chiama da Milano. Prego Mario. Buongiorno Giannino, buongiorno a suoi interlocutori. Io sono un ricercatore dell'Università di Milano. E volevo dare voce in che area? Ricercatori che sono d'accordo con la riforma. Mi sente? Sì, no, chiedevo in che area è ricercatore. Neurofisiologia. Sono un ricercatore della facoltà di medicina. Sì. Volevo dare voce a chi è d'accordo con la riforma. Sicuramente non potrò argomentare perché non ce n'è il tempo. Adesso naturalmente penseranno che l'ho scelta io. Invece io non funziona così, no. Perché io le telefonate mi trovo sul video quelle che mi danno. Non so se no. Io lo so che a casa non ci crede nessuno, però prego Mario. Come si fa con i prestigiatori? Se vuole le dico che confermo, no, che ma non lei, ci conosciamo. No, ma conferma lei e conferma il peggior sospetto. Però prego Mario. No, ok, era una battuta. No, volevo dire che non potrò argomentare nel dettaglio, ma voglio dire questo. I ricercatori italiani sono dei privilegiati. Scusi? No, e le devo diffidare. Se adesso mi dice che sono dei privilegiati, su, prego. Sì, sono dei privilegiati perché non devono sostanzialmente rendere conto a nessuno di ciò che fanno. E la loro protesta, la protesta dei miei colleghi, risulta una protesta sostanzialmente corporativa. E io non voglio apparire come i piloti dell'Alitalia, per esempio, perché hanno fatto leva, e ho sentito anche nell'ultimo intervento, sul numero di studenti, sulla didattica. Ora voglio dire questo: fare didattica è molto più semplice che fare ricerca, e la carriera dei ricercatori nell'università italiana si basa più sul fare didattica che non sul fare ricerca. Allora si sceglie una via di minore resistenza per progredire nella carriera. Questo è tutto. La cosa fondamentale è che noi non dobbiamo rendere conto a nessuno. Ho capito Mario, credo che lei sia una mosca bianca, ma comunque la ringrazio. Sentiamo Franco da Padova. Franco da Padova, prego. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Senta, io volevo fare una premessa. Premesso che ho avuto come clienti alcuni enti di ricerca dell'Università di Padova, perché fornivo loro del materiale. Le dico la verità, io ho mollato i clienti perché stare lì delle volte per scaricare la roba mezz'ora mi veniva il mal di fegato nel vedere e nel sentire come lavoravano o che discorsi facevano durante l'orario di lavoro, lasciamo perdere. Però il mio intervento era basato su una cosa generale, diciamo, mi pare che la sommatoria delle persone, dei dipendenti del Ministero della Pubblica, mi scuso perché ho la voce un po' alterata. Prego. Influenza. Praticamente la sommatoria dei dipendenti della pubblica istruzione dell'università assomma a 1.350.000 persone e i bilanci di queste aziende mi pare che per il 95%, almeno per quanto viene dichiarato dai ministeri, sia dato in stipendi. Io non so se esiste al mondo un'azienda che possa vantare dei record del genere, perché io penso che la situazione potrebbe essere enormemente migliorata se ai ricercatori venisse data la possibilità di vedere cosa bisogna fare dalla mattina alla sera per sbarcare il lunario in un'azienda privata. Forse comincerebbero a capire che il signore che ha chiamato prima ha centrato il problema. Grazie Franco, ci terrei a un ultimo passaggio d'opinione, primo con Mula sul punto, poi del a chi risponde il ricercatore nelle università. Quella è un'opinione di un collega, però è meglio tornarci, perché altrimenti chi è a casa si fa un'impressione, corre il rischio di sbagliare l'impressione. E poi un'opinione di Alessandro Barbera. Prego Mula. Allora, io vorrei ribadire che noi stiamo protestando perché vogliamo una riforma che valuti didattica e ricerca. Come ha detto Valditara, la riforma attuale non prevede una cosa seria né sulla didattica né sulla ricerca. Quindi non è vero che, è vero che adesso non ci sono valutazioni, ma noi vogliamo che ci siano, perché la gente che va davanti sia quella che lavora per davvero. E vorrei anche giusto dire un commento sull'ultimo ascoltatore: l'università non è un'azienda, non può essere valutata con parametri identici, ma serve che la gente che ci sta dentro lavori, su questo siamo d'accordo. Sul fatto che la percentuale, che è superiore, come lei sa, al 95% del totale del bilancio, vada solo ai dipendenti, che vogliamo dire? Questa è una questione che bisogna stabilire qual è il numero di dipendenti che si vogliono avere in base a qualche parametro definito, che possa essere la didattica ma anche la ricerca, anche in confronto con gli altri, e serve anche che i fondi siano stabiliti in maniera congrua, perché io non posso tagliare i fondi e poi dire ma state spendendo il 90%, queste cose vanno confrontate. Se io non posso dire a lei che le do 1000 euro e poi una persona che va a lavorare con lei la paga 500 euro al giorno, poi gli dico però vede che non investe bene i soldi, questo non si può fare. Va bene, sulle compatibilità evidentemente ci torneremo un'altra volta. Barbera, da osservatore, da giornalista che segue i problemi della ricerca, dell'economia, eccetera, eccetera, però le chiedo questa volta di dare anche un flash su quello, sull'impressione, a che punto siamo con questa ricerca, questa riforma Gelmini, mi perdoni, sopravviverà a questo punto, oppure il decadere dell'atmosfera politica e il fatto che oramai pezzi della maggioranza e dell'opposizione sono a gara in cima all'onda della protesta ne decretano il fatto che non andrà in porto, secondo lei? No, io credo che andrà in porto perché è il frutto di un compromesso. E se posso dire, per fare un po' anche il punto da quello che diceva Maiani fino qui, se manca di qualcosa questa riforma è probabilmente aver fatto troppi compromessi. Questa riforma non fa quello che avrebbe dovuto fare, cioè un piano industriale dell'università. Il caso che citavo dell'IT è il caso di una piccola realtà nella quale si decide di pianificare degli investimenti. Se questi investimenti funzionano si va avanti, se non funzionano ci si ferma. In Inghilterra, dove le università sono pubbliche, io sono stato, ho avuto la fortuna di studiare un anno in Inghilterra, dove studiavo io, l'anno in cui ero io, un dipartimento ha chiuso perché il Comitato Nazionale per la Valutazione ha deciso che quel dipartimento non doveva funzionare ancora. Allora, il problema dell'università italiana è tutto qui. Si aprono sedi, corsi di laurea, facoltà, si costruiscono decine, migliaia di posti di lavoro e poi si dice non ci sono più i soldi per tutti. Esatto, e guarda caso, esatto, quei soldi si spendono tutti per i ricercatori. Non avrei potuto concludere con parole dette da me più equilibrate, e più equilibrato di me Alessandro Barbera, ma che a mio giudizio colgono più il segno. È la consueta illusione del postificio pubblico a spese del contribuente che viene spacciata per qualità della ricerca e futuro. E se i politici vanno sul tetto per questo, ci stiano per quello che mi riguarda. Fine equilibratissima della trasmissione di oggi. State sul tetto, che fate meno danni, datemi retta, state lì sul tetto, non scendete fino alla prossima primavera. Bene, grazie a tutti coloro a cui questa puntata equilibratissima è andata in onda. State sul tetto, non scendete, per favore. Ci sentiamo domani.